Inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30 e partiamo con quella che è la sigla di inizio, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, questa era la sigla d'inizio di questa trasmissione Zardins Magnetics, che è in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane a Udine, e iniziata ora alle 20 fino alle 21:30, e ora andiamo all'ascolto di questo split LP dove ben 4 sono le band, ed è uno split diciamo a livello internazionale dove sono molte le coproduttori, cioè le etichette che hanno coprodotto questo album, ed è uscito nel 2019. Noi ora andiamo ad ascoltarci i Necrotic Society. Ecco, allora ben ritrovati e ben sintonizzati sulle frequenze di Onde Furlane con Zardins Magnetics, anche da parte mia. Oggi siamo giovedì 2 settembre e insieme a voi stasera vorrei provare a leggere insieme a voi, insomma, un articolo che dà così testimonianza del dibattito negli Stati Uniti d'America a un anno dalle rivolte con George Floyd. Perché ho deciso così di tirar fuori questo articolo? E secondo me perché magari può essere di spunto, ovviamente non condivisibile in tutte le sue varie, diciamo, in tutti i suoi spunti, in tutte le sue le problematiche che apre. Comunque può essere di spunto per una, chiamiamola, riflessione in merito alle proteste, perché in Europa, in Italia, specialmente in Italia, non si può ancora parlare di rivolte, neanche lontanamente, in merito al Green Pass. Io ho pensato questo, insomma, di provare a fare un parallelo. Non a caso, insomma, negli Stati Uniti le autorità non si sono finora sognate di imporre obblighi di nessun genere rispetto alle cure mediche. E secondo me non è un caso, insomma, perché appunto è ancora vivo il ricordo delle fuoco e fiamme, insomma, del maggio-giugno 2020. Bene, quindi quando sono le 20:20, a prova che andiamo in diretta, io appunto volevo presentarvi questo articolo che è stato tradotto in italiano dalla rivista, diciamo, online Qui e Ora, ed è un articolo che si intitola Meme senza fine, e l'autore è Adrian Wolleben, e appunto che è un ricercatore, diciamo, chiamiamolo, di movimento, un ricercatore che è anche attivista politico. Ne so poco, insomma, non ho approfondito chi sia questo Adrian Wolleben. E comunque è uno che ha partecipato alle rivolte per George Floyd, e che allo stesso tempo aveva partecipato e si era interessato alle rivolte dei gilet gialli credo fosse il 2000, insomma, che fosse il 2019, ma comunque la sua ricerca insieme a un altro collega si chiamava Meme con la forza, lezione dai gilet gialli, era uscito nel febbraio 2019 e l'aveva scritta insieme a un certo Paul Torino, che è un altro, insomma, un altro ricercatore, attivista, militante politico come questo Adrian Wolleben. E dunque, premessa, i curatori, cioè i traduttori in italiano, hanno scritto che anche loro dicono: pubblichiamo la traduzione di questo denso articolo apparso su Il Will il 17 maggio scorso. Su diverse questioni abbiamo delle perplessità, comunque sia un articolo importante per capire il livello problematico del dibattito statunitense. E appunto, cioè, è passato un anno dalle rivolte e si sta facendo un po' in bilancio, insomma, perché si è fermata la rivolta, perché non è andata fino in fondo, eccetera. Vi leggo solo queste tre righe dell'inizio dell'articolo e poi mettiamo un po' di musica. Le riflessioni qui proposte tentano di tracciare solo alcune delle soglie, le soglie, diciamo, delle possibilità politiche vitali, cioè il confine delle nostre possibilità politiche vitali. Le riflessioni qui proposte tentano di tracciare solo alcune di questi confini. Sono nate come appunti presi al volo, conversazioni tra amici, tra il fuoco e il fumo di una lunga e calda estate. We'll be right back. Eccoci qua di nuovo in diretta con Zardins Magnetics. Quindi stiamo leggendo, cioè stiamo così presentando un po', parlando a proposito di questo articolo Meme senza fine. Io così si sente questo, cioè si è cominciato a sentire questo termine meme, perché il meme è il. Sono quelle, diciamo, filmati anche o modi di dire o gesti che girano sui social network specificamente, diventano virali, come, ecco, me ne ricordo uno, non so se è corretto, insomma, precisamente, semiologicamente, comunque me ne ricordo quelli ne avevano tirati fuori parecchi su Renzi, ad esempio in Italia ce n'erano diversi, perché il soggetto si prestava particolarmente allo sputtano, insomma, al ridicolo, si presta tuttora. Comunque, appunto, non consideriamo il meme come appunto questi che dilagano nei social network, utilizzati come propaganda per promuovere ideologie sociali, per promuovere per promuovere un tubo, in realtà, cioè per semplicemente propagare questi tic o questi gesti comici così di satira. Ma al contrario, ci riferiamo a tutta una serie di pratiche e gesti che trainano, diciamo, una sommossa popolare, largamente partecipata, cioè con centinaia, migliaia di persone in strada, come è successo ad esempio negli Stati Uniti, o come è successo anche in altri posti, ad esempio Hong Kong o in altre zone. Ecco, lui qua fa degli esempi che adesso così vi leggo, ma non sono, cioè, rappresentativi, è solo per capire di cosa parliamo. Camionisti incazzati per le norme di sorveglianza si organizzano autonomamente attraverso gruppi su Facebook e cominciano a fare rallentamenti di massa sulle autostrade, bloccando le autostrade e i centri cittadini. Il gesto si diffonde rapidamente non solo ad altri camionisti, ma anche alla gente del posto, che arriva col proprio veicolo per propri motivi, guidando accanto i camionisti fino a superare del tutto i camionisti, portando a sciami di veicoli che si spostano in carovane per i centri città. Oppure spunta un filmato della polizia che, dopo aver tentato di disperdere una battaglia, viene inzuppata da folle di adolescenti urlanti con pistole ad acqua. In pochi giorni i poliziotti sono perseguitati e bagnati da folle di giovani in due stati, sempre negli Stati Uniti, no? In risposta agli aumenti delle tariffe sui trasporti pubblici, degli adolescenti organizzano un gioco sovversivo che chiamano evasione di massa e lo promuovono sui social media. Il gioco adatta a una forma quotidiana di sovversione individuale, non pagare il biglietto del treno, trasformandola in un gesto collettivo riproducibile in gruppi. La repressione statale del gioco non fa che diffonderlo sempre di più, catalizzando una sequenza insurrezionale ancora oggi attiva. Mi sembra che una cosa del genere sia scoppiata, cioè sia stata l'origine della rivolta che sono state in Cile prima del scoppio della pandemia. Comunque, avendo chiaro cosa significa allora un meme, questo articolo vuole, insomma, mettere a confronto due paradigmi. Da una parte, appunto, questi gesti memetici, e dall'altra parte invece il paradigma che loro chiamano movimento sociale, che è l'esito, insomma, per lo schema tradizionale dei, diciamo, militanti politici, è l'esito di convergenza di lotte diverse, in realtà insomma, disparate della società, ma che loro dicono sull'origine e lo sviluppo di questi movimenti di solito influisce sempre molto il genere di istituzione dal quale essi si originano, ovvero c'è una protesta studentesca, allora l'istituzione di riferimento è l'università, c'è una protesta in fabbrica, un blocco, un picchetto, anche pensando alla logistica in Italia, allora l'istituzione di riferimento è la fabbrica o il padrone, c'è una protesta in un CPR, allora anche lì comunque c'è l'istituzione di riferimento, è sempre lo Stato, anche in diciamo in una dimensione negativa, in quanto sta negando il documento al soggetto che si sta ribellando. Mentre appunto questi movimenti sociali diciamo si cristallizzano un po' in riferimento all'istituzione dalla quale si sono originati, qui si dice che il meme invece funziona diversamente, assorbe e coordina la rabbia e la collera di chiunque, non è vincolato a quel tipo di realtà da dove si origina la protesta. Quindi anche di conseguenza i gruppi hanno una serie di caratteristiche e di sono disciplinati in base a concetti di legittimità, funzionano a comando, insomma ci sono sempre dei leader, anche non volendo si originano insomma dei leader, mentre invece il meme ha possiamo individuare tre caratteristiche. La fondamentale è che la possibilità di imitarlo, di ripeterlo all'infinito, no? Allo stesso modo dei meme, quelli che vediamo sui social media, eccetera, le prese in giro, diciamo, quelle che girano in maniera virale. E questa è la uno. La seconda è che una volta che scoppia questo meme, anche le pratiche che ci sono vicino a questo, mentre il meme viene riprodotto, si sintonizzano e cominciano a modificarsi, e quindi l'esito finale, cioè che la terza caratteristica è ultima, e poi magari mettiamo ancora un po' di brani, è che appunto come se fossero, come appunto nella musica, si organizzano, cioè si originano una serie, cioè delle variazioni musicali, no? Sulla base del primo tipo di protesta, come abbiamo letto pochi minuti fa, vi ho letto insomma l'esempio dei camionisti. I camionisti stavano protestando per un motivo, però si aggregano altri in macchina. Questa cosa qua, specialmente negli Stati Uniti, senza macchina non vanno da nessuna parte, senza l'automobile ti copre tutti i momenti della vita quotidiana, quindi anche la protesta si fa in automobile, quindi invece che scendere in piazza scendono con l'automobile e bloccano il traffico. Andiamo con ancora qualche brano. Ecco, allora siamo sempre qui, sono le 20:35 in diretta da Via Volturno a Udine. Stiamo appunto parlando stasera delle rivolte per George Floyd. Quindi appunto abbiamo individuati questi due filoni. Da un lato abbiamo diciamo il movimento sociale, quello classico, diciamo, schematicamente si basa sul gruppo, diciamo gruppo di riferimento di questo movimento sociale di protesta. E questo gruppo cosa fa? Traduce le sue esperienze in ideologia, no? Funziona così. Il meme invece, il meme come appunto gesto, come pratica virale, funziona stimolando variazioni sul suo tema, diciamo, sulla protesta, parte inizialmente in un modo e poi gradualmente, senza soluzione di continuità, si trasforma e dilaga anche, diciamo, a livello di significato. E un esempio proprio lampante appunto di questa cosa, del funzionamento del meme, è appunto di mettersi il gilet giallo e ritrovarsi nelle rotatorie, come è successo in Francia. Questo è di per sé già un gesto, di per sé è un gesto autonomo, diciamo, di rottura e di aggregazione di appunto istanze anche non solo plurali ma anche contraddittorie, no? Ma quello che conta appunto è che la protesta dilaga. Allora, dilaga, diciamo, a livello sempre più esponenziale in determinate situazioni. E questi antagonismi sono appunto potenzialmente, diciamo, da un punto di vista astratto, anche illimitati, cioè si prefiggono un obiettivo, diciamo, che può essere raggiunto e che dopo di cui si placano. Al contrario, appunto, il livello, diciamo, di sofferenza o di oppressione a cui le soggettività sono sottoposte, che rendono misurabile un livello di il livello di obiettivo raggiunto, diciamo, di quando si può smettere, diciamo, quando si placa la protesta. Vi leggo adesso qualche riga dell'articolo. C'è solo un'unica superficie piana, l'esperienza, la vita quotidiana, articolata in varie grammatiche della sofferenza e popolata da innumerevoli forme prepolitiche che qua e là raggiungono una soglia di intensità che le polarizza, spesso ma non sempre, sotto l'influenza di eventi più grandi. Ciò che conta è identificare nelle varie situazioni in che modo pratiche non riconosciute, inappropriabili, anonime, originate nella vita quotidiana, vengano magnetizzate dai conflitti e quale portata potenziale ciascuna possa ancora contenere. Se è difficile immaginare che un'insurrezione negli Stati Uniti oggi possa prendere la forma di un consolidamento disciplinato di gruppi sociali marginali, ad esempio in una cristallizzazione di folle in virgolette classi attraverso la solidarietà, o entro nuovi quadri militanti razzialmente separatisti, è invece più facile immaginare un contagio virale di azioni che rispondono intelligentemente al loro momento, che si intensificano in esperimenti di massa di condivisione comunista su varie scale, che questi esperimenti possono poi tendere all'orizzonte di un'insurrezione o meno, dipenderà dalla potenza materiale ed etica di questi esperimenti, dalla sua capacità, cioè, di rendere il ritorno alla vita normale e all'economia borghese indesiderabile a milioni di persone. Quindi, cioè, la potenza di queste proteste dipende dal fatto che a un certo punto chi partecipa alle proteste è portato a trascinare gli altri, fin quando diciamo c'è, sorge la consapevolezza che la vita che si conduceva poco prima è diventata indesiderabile e che il momento passato, il momento della protesta, c'è anche un orizzonte, diciamo, di stabilità, di un quadro, diciamo, alternativo alla vita di prima. Ecco, questo è un aspetto che secondo me può essere trasportabile alla cornice delle proteste sul No Green Pass. Adesso però dopo diciamo i brani che andranno, diciamo, che adesso faremo partire, un po' di musica, e affronteremo nel prossimo blocco anche questioni del contenuto delle proteste che sono svolte negli Stati Uniti, con l'omicidio da parte della polizia a Minneapolis di George Floyd. Le anime più oscure non sono quelle che scelgono di dimorare nell'inferno dell'abisso, ma quelle che scelgono di liberarsi dall'abisso e si aggirano silenziosamente tra noi. Yeah. Ecco, questi che abbiamo ascoltato ora erano i Congegno, band trentina, che da quanto mi risulta tutti i dischi successivi al loro scioglimento sono appunto stati registrati tutti nel 2008, l'unico anno in cui questa band è esistita. E comunque sembra una cosa quasi una prassi, queste band che si formano rimangono in vita un anno e poi scompaiono, specie nel Trentino. Vabbè, comunque questo era il Congegno, che ascolteremo anche dopo, mentre volevo dire, presentare insomma i brani che avevamo ascoltato in precedenza, che tutti erano estrapolati da questa, da questo split LP uscito nel 2019, che sono quattro le band all'interno, tant'è che io ho detto prima, quando ho presentato uno split a livello internazionale, perché c'è un lato con due band dagli Stati Uniti che avevamo appunto ascoltato, erano i Necrotic Society, e l'altra band che non abbiamo ascoltato comunque erano i The Minutes, e poi c'è il lato europeo con la band italiana ID che abbiamo ascoltato, e poi la band tedesca i Sick Times. Comunque torniamo all'ascolto dei Congegno. Yeah. 1:52, siamo sempre in diretta da Via Volturno con Zardins Magnetics. Hai portato una boccata d'aria fresca in un mondo di zombie. Non mi ricordo più cosa ha detto la voce dei congegno. Comunque è quello che succede anche con nei momenti di protesta particolarmente partecipati, e questa sera stiamo vedendo insieme, insomma stiamo considerando io con voi, diciamo insieme, stiamo parlando di questo articolo Meme senza fine, tradotto in italiano, lo ritrovate su Qui e Ora, è uscito già qualche mese fa, e l'autore è Adrian Wohlleben. Eravamo arrivati circa a metà dell'articolo e adesso l'autore prende in considerazione diciamo i contenuti delle proteste partite da Minneapolis in seguito all'uccisione da parte della polizia di George Floyd, e in particolare mette in luce come dopo l'incendio del terzo distretto, ovvero di una stazione, di una questura locale o insomma equivalente alle nostre, insomma nelle metropoli del terzo distretto Minneapolis, appunto, che fu incendiato con le proteste, preso letteralmente diciamo a ferro e fuoco, e non c'è stato diciamo più progresso, non ha avuto seguito la protesta e si è ritornati gradualmente alle occupazioni degli spazi pubblici sulla falsa riga di Occupy diciamo di un decennio fa. Però prima di proseguire volevo dire una cosa che altrimenti poi mi dimentico, che non ho detto mentre leggevo prima. Ovviamente, naturalmente, gli esempi, diciamo, oppure diciamo meglio, lo schema diciamo interpretativo che c'è in questo articolo non tiene, chiaramente non è che per ignoranza, ma per motivi suoi, insomma, interni, non tiene conto del fatto che non si chiamavano meme, ma queste forme diciamo di spontanee di protesta, penso ad esempio a salire sull'autobus senza pagare il biglietto diciamo in massa, o autoriduzioni, sono sempre ovviamente nel contesto italiano, questo degli anni 70, erano una cosa di ordinaria amministrazione certi quartieri delle metropoli, ma non solo. Queste cose qua erano condivise, erano di dominio pubblico, anche se adesso sembra di parlare di un altro mondo, e semplicemente non si chiamavano meme. Queste cose qua lo sappiamo noi, insomma, che leggiamo, ma probabilmente negli Stati Uniti pure era così, diciamo in determinati momenti di scontro il livello insomma aveva raggiunto momenti diciamo di determinazione elevata. Anche negli Stati Uniti ci sono stati episodi di sabotaggi, attacchi eccetera in seguito specialmente le proteste del 68, ma comunque adesso parte questa digressione, torniamo all'articolo. E che appunto fissiamo bene questo concetto che il demolizionismo era il concetto, diciamo, il momento diciamo fondamentale della protesta per George Floyd e non il successivo abolizionismo. E leggo: la prima fase della ribellione seguita all'assassinio di George Floyd è stata qualitativamente diversa dalla mobilitazione improntata al policy making che successivamente ha cercato di soppiantarla. La spontanea intuizione pratica della folla praticava una risposta del tutto logica alle forze che avevano assassinato Floyd: espellere la polizia, sabotare le loro basi, affondare le loro navi da guerra, distruggere i luoghi dove si organizza la loro violenza, distretti, sottostazioni, tribunali, così come le auto e i furgoni che le fanno circolare. In contrasto con le campagne abolizioniste per virgolette, definanziare i dipartimenti di polizia o, nelle sue versioni più deboli, per integrarli a commissioni di revisione civile, tra virgolette. Quindi, entro paradigmi discorsivi, dialogici, rivendicativi che lasciano l'iniziativa nelle mani dello Stato, il demolizionismo mira ad appiattire materialmente gli organi del potere statale, a rendere logisticamente e socialmente impossibile per la polizia e i tribunali affermare la loro pretesa di governare. In breve, a rendere la situazione ingovernabile e a rendere questo fatto palese per tutti. È stata la pratica demolizionista e non la politica abolizionista a bruciare il terzo distretto. Quindi, appunto, adesso lasciamo un po' di musica, vi lascio un po' di musica alle vostre orecchie, solo una pausa, poi riprendiamo con la considerazione di questo articolo. Di nuovo qui su The Rains Magnetic, sono le 21.00 in diretta e stasera vi sto annoiando con questo articolo, diciamo di bilancio delle rivolte su George Floyd. Dunque, un'altra cosa interessante che tira fuori questo articolo è che andiamo a vedere quali sono stati i fattori scatenanti della protesta. La protesta a cui, appunto, stiamo parlando degli Stati Uniti, non prendiamo in considerazione altre esplosioni in altre parti del mondo, però sono diventate, diciamo, il vettore dove si sono aggregate identità opposte e anche contraddittorie, cioè oltre ai neri hanno protestato negli Stati Uniti anche i bianchi sfruttati o, diciamo, a livelli diversi di sfruttamento o di esasperazione, e Questa magari è una cosa che i non addetti ai lavori, me compreso, non hanno approfondito. Comunque negli Stati Uniti è emersa questa questa prospettiva dei i neri, appunto, come componente razzializzata, razzialmente ma non solo discriminata, ma insomma repressa. Invece i bianchi sono stati caratterizzati come traditori della razza, no? Ovviamente della loro razza, in senso lato, fra virgolette, razza, però traditori della loro razza di appartenenza. Allora, questo tipo di caratterizzazione, che appunto secondo l'autore di questo articolo fa riferimento sempre allo schema del movimento sociale, non tiene conto van persa tutta una serie di caratteristiche essenziali di come si sono svolte queste proteste, ovvero la prospettiva interna e la grammatica dell'azione che ha caratterizzato queste proteste. Allora, vi leggo, poi mettiamo ancora un brano, secondo me, inteso alla regia questa. Niente è più intimamente reale del muoversi in una folla anonima, gli uni accanto agli altri, spinti come falene verso la fiamma. Descrivere l'esperienza delle rivolte dell'estate scorsa come, virgolette, tradimento, significa leggerla solo attraverso il, virgolette, bando che struttura la società civile anti-black. Allo stesso tempo rimane non raccontata l'inclinazione e la propensione a cui ci si abbandona durante l'esperienza della rivolta. Quando consideriamo le cose dall'interno, ciò che potrebbe apparire dall'esterno come un tradimento delle norme egemoniche, spesso si rivela l'esatto contrario. Dall'interno ci è sembrato il recupero di un'esperienza qualitativa di cui la società borghese razzializzata ci ha privato, una presenza luminosa e fiduciosa a una situazione condivisa, ricca di poste in gioco concrete, rischi condivisi e dipendenze reciproche, un'opportunità per esprimere la nostra non appartenenza all'ordine storico dominante. Prima di poter tradire le nostre identità ascritte, dobbiamo porre fine a quel tradimento verso noi stessi, quell'incessante mutilazione dei nostri sensi che ci viene richiesta dalla religione sensoriale dell'impero. Mentre il tradimento della razza guarda a questo momento dall'esterno, noi parleremo invece da una prospettiva interna o modale del movimento reale, una prospettiva incentrata sulla grammatica dell'azione e sull'esperienza della presenza. Qualsiasi comprensione integrale di eventi politici come il saccheggio e la lotta contro la polizia deve rendere anche conto del ripristino dell'esperienza che per prima rende possibili tali attacchi, un ripristino di natura etica. Con movimento reale mi riferisco non solo a un repertorio specifico di metodi e gesti, ma anche al ripristino della fiducia che questi presuppongono, una certa presenza al mondo dentro di noi che essi attestano. Ogni rivolta è prima di tutto un'esplosione di fiducia vitale nelle nostre stesse percezioni, un'improvvisa volontà di prendere sul serio le nostre stesse vite come luogo e fonte di verità legittima. Le rivolte dell'estate scorsa non sarebbero mai avvenute senza una singolarizzazione di questo tipo, in cui ci rifiutiamo di sganciarsi dalla nostra percezione, dal nostro contatto con il mondo. Prima che si metta a demolire lo stato di cose presente, il vero movimento coincide con l'assunzione messianica del nostro ingresso singolare nel mondo, la soppressione delle mediazioni, la fine dell'attesa, il momento in cui smettiamo di chiedere il permesso e di dialogare e cominciamo a fare ciò che ha senso per noi e per le nostre ragioni. Come ha scritto un vandalo molto saggio sul muro di Minneapolis, "Welcome back to the world". Forever! Never be made! Don't get back to me! ok, un po' un rallentamento brusco, fine brano. E comunque la band che i brani che ci siamo ascoltati adesso e anche in precedenza l'intervento è una band finlandese, loro sono i Väinämöinen Kolonna, e questo era un loro album uscito nel 2004. Tra l'altro, particolarità, il loro album di questa band, che sono stati almeno 4, quasi tutti sono usciti per un'etichetta italiana. Comunque poi ora invece andiamo all'ascolto di una band olandese da uno split album assieme ad una band tedesca. Comunque noi ci ascoltiamo gli olandesi Civil War. Ecco, mi sembra che siamo di nuovo in diretta, sempre su Zardins Magnetics, sono le 21:13, siamo in diretta, lo ripeto, è un tormentone questo dell'ora stasera, perché siamo un po' qua in formazione ridotta e vi sto parlando di questo articolo di bilancio sulle proteste partite da Minneapolis nel 2020. Quindi abbiamo appena parlato del fatto che noi abbiamo ancora 20 minuti stasera e faremo ancora due piccoli, diciamo, interventi miei e poi ci saranno i saluti. Abbiamo visto che con queste esplosione di meme, di la rivolta, insomma, che si basa sulla riproduzione di pratiche e gesti virali, e l'aspetto più fondamentale è appunto questo ripristino dell'esperienza, questo ascoltare la molla che abbiamo dentro, come cantavano i Wretched tanti anni fa, e quindi avere questa fiducia vitale, riconquistare questa fiducia vitale in noi stessi e rifare della nostra vita quotidiana, concreta, la fonte di verità legittima, non ascoltare più il potere, non ascoltare più le menzogne, le falsificazioni. Quindi durante queste rivolte un sintomo fondamentale di questa dilagare di fiducia nella propria soggettività, nella propria, diciamo, essere fonte di legittimità, di non dover chiedere permesso agli altri, al potere, alla controparte, è stato che durante la prima settimana di rivolte negli Stati Uniti nessuno ha pensato, diciamo, a fare riunioni, assemblee, discutere per capire quali erano le linee, cioè nel momento in cui, appunto, come diceva già sul tempo Sartre quando analizzava i gruppi caldi, cioè una famosa celebre, insomma, analisi della rivolta della Bastiglia, che sono quasi un centinaio di pagine, appunto, dove viene analizzato questo gruppo caldo, mi sembra, così vado a memoria. Comunque non servono le riunioni, le assemblee per prendere decisioni, perché c'è altro a cui pensare nel momento in cui si è in strada. Ognuno, se deve dire qualcosa, lo fa facendo una scritta a spray o su qualche muro di imprese o proprietà statali, o agendo, diciamo, e gli altri in sintonia corrispondono a questi gesti, queste pratiche antiautoritarie. La sconfitta è iniziata, appunto, quando il livello della posta in gioco si è abbassato il livello, e la posta in gioco è diventato, appunto, l'interlocuzione con la controparte, quindi il dialogo, la pacificazione. Così, diciamo, seguiamo la linea di questo articolo. Una cosa interessante che io ho trovato interessante, che è emersa quando, appunto, le masse di popolari sono diventate, diciamo, hanno cominciato a dilagare, attaccare i punti, diciamo, di applicazione dell'oppressione, è stato che a quel livello lì cominciano a fare, diciamo, politica, fra virgolette, o cominciano col vittimismo, con dinamiche da, appunto, un movimento sociale, anche la controparte, anche non tanto lo Stato, ma magari chi è colpito dagli attacchi, la piccola borghesia, le piccola proprietà, appunto, e cominciano a emergere rivendicazioni identitarie, diciamo, contro il movimento reale, no? Poi, appunto, adesso nel paragrafo che segue l'articolo approfondisce, diciamo, discorsi più legati alla realtà, al contesto, appunto, razziale, razzializzato degli Stati Uniti d'America, e che è lo stesso denso, interessante anche quello. A noi interessa però, appunto, questo discorso del fatto che, prendendo spunto da Clastres diceva, appunto, che le società primitive senza classi sono tali perché mettono in campo delle tecniche che servono a sospendere, a rimandare, a posticipare l'origine dello Stato. Non è che loro l'hanno abolito o che non sanno cos'è, però nelle loro condotte, il loro spirito, diciamo, comunitario, impedisce allo Stato di sorgere. Quindi ritorniamo all'insurrezione degli Stati Uniti d'America 2020. Gli esperimenti della costruzione sul territorio di realtà, appunto, liberate non sono riusciti a stabilire consistenze oltre il tempo della battaglia, cioè sono state messe in pratica queste realtà, però non hanno raggiunto il livello, diciamo, tale da impedire di essere ricoperte come la vegetazione spontanea. Succede, appunto, vicino a un bosco, quando uno non fa pulizia, appunto, che il bosco si riprende il terreno e appunto le zone liberate non sono riuscite a sospendere la nascita dello Stato. Mettiamo ancora un brano e poi concludiamo con questo articolone. Ecco, quindi l'ultimo capitoletto di questo articolo tratta insomma del rapporto tra rivolta politica e rivolta delle vetrine, cioè di come si siano diversificate le proteste, da un lato appunto quelle più caratterizzate politicamente di attacco alle questure, alle stazioni di polizia e ai tribunali, e dall'altro l'attacco, il saccheggio, diciamo, il vandalismo dei centri di accumulazione del capitale, diciamo, mercantile. E uno spunto è che queste due linee trovino una convergenza, diciamo, ma non così teorica. Facciamo un passo indietro: tra il 26 maggio e l'8 giugno in tutti gli Stati Uniti d'America si è raggiunto il record di quasi 2 miliardi di dollari di danni, con mobilitazioni su 1700 città e centri, cioè un delirio di proteste. Cosa è successo in questa settimana? La polizia, cioè le forze dell'ordine, in realtà sono state assediate, però quello di difendersi per loro non è un problema, diciamo, si blindano dentro. Un problema più rognoso per loro è stato inseguire le proteste, diciamo, gli attacchi, i saccheggi ai centri commerciali, neanche più, sono stati superati negli Stati Uniti, cioè diciamo ai centri di distribuzione delle merci, perché si ritrovavano appunto a dover convergere in grande quantità di pattuglie, diciamo, tutte in una zona, e poi mentre facevano questo l'altra zona della città o l'altra zona della metropoli rimaneva scoperta, e quindi i saccheggi scoppiavano da quella parte. Ecco, cosa è successo? Tra il 10 e il 12 agosto a Chicago del 2020, l'esempio di Chicago è stato proprio esemplare. In questo articolo appunto racconta di come, per evitare l'attacco alle merci, tutta la metropoli di Chicago è stata praticamente trasformata in una fortezza medievale, quindi anche camion della nettezza urbana, schierati, sale sparso sulle rampe della tangenziale, barricate mobili, cioè quello ovvio dell'antisommossa, barriere di cemento, in modo che i neri e la popolazione, diciamo, in lotta non potesse avvicinare, anzi rimanesse isolato dalle zone residenziali dove sono insediate i ricchi e i bianchi, cioè i bianchi ricchi. Allora, si parla proprio di controinsurrezione infrastrutturale in questo caso, cioè la controparte, il potere, lo Stato e il capitale sono stati costretti a ritirarsi ed è finita la farsa della pace sociale, la finzione della pace sociale, e essendosi ritirata sono emerse, diciamo, le realtà, diciamo, di frantumazione, di separazione netta tra sfruttati e sfruttatori. E quindi, ed è anche un'altra cosa importante, come dove sono funzionati i blocchi, appunto, delle masse in rivolta, sono sempre stati selettivi, cioè non hanno bloccato in astratto tutto il traffico, ma appunto bloccavano il traffico rivolto che portavano le rifornimenti alla controparte, invece lasciavano passare quelle che portavano rifornimenti o insomma che servivano al procedere alla vita quotidiana. Io direi che, siccome siamo agli sgoccioli, potrei concludere qui. Ripeto l'autore di questo articolo denso, che è apparso sulla rivista online Qui e Ora, che si chiama Adrian Wohlleben, penso sia statunitense, un ricercatore. Il titolo è Meme senza fine, e ci sono vari spunti di riflessione, insomma, spunti, insomma, anche di discussione, di cui alcuni ho cercato di presentarveli stasera. Vi saluto e vi lascio nelle mani della regia. Mandi. Bene, lascio in sottofondo questa band statunitense che sono i War Cry, band della solita, mi viene da dire, cittadina di Portland, dell'Oregon, dove decine sono le band che ha sfornato quella cittadina, anche se i componenti più o meno sono vari, che hanno partecipato a quasi tutte queste band. Comunque, sappiamo, insomma, negli ultimi 20 anni, 15, più o meno lo stile quello lì, dei tipo Tragedy. Infatti anche qui, questi War Cry, ci sono alcuni elementi che hanno suonato nei Tragedy, e anche altre band che sono, come dicevo, decine di band. Comunque, prima abbiamo ascoltato i War Cry, che era i Civil War, che era una band olandese dal non split del 2006, assieme ai Brain Dead, che anche, non ho detto il titolo dell'album dei War Cry, sempre del 2006, che comunque si chiama The Program ed era il loro secondo album. Siamo, come è stato detto prima, al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane a Udine, e appunto termina alle 21.30 quando inizia alle ore 20. E prima di concludere definitivamente per oggi, vi ricordo i nostri contatti, tra cui quello, diciamo, se volete pure risentire questa trasmissione o comunque le precedenti delle settimane scorse, c'è il blog, e basta andare in rete e digitare zardismagnetixradio.noblogs.org. ripeto, zardismagnetixradio.noblogs.org. poi per i contatti sempre via rete internet c'è questa mail, che è liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. e se invece volete scriverci in forma cartacea, c'è una casella postale, che è la casella postale 129, intestata dall'Associazione Senza Sbarre, Trieste Centro, 34121 Trieste. Ripeto, casella postale 129, Associazione Senza Sbarre, Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121 Trieste. Bene, vi lascio nuovamente con questi War Cry dal loro album The Program. Quindi siamo giunti al termine, ciao a tutti e al prossimo giovedì.